Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Scrivo a proposito della lettera aperta di Claudio Magris a Berlusconi affinché chieda giustamente al presidente Sarkozy l'estradizione della signora Petrella per motivi di rispetto al nostro Stato, alla nostra magistratura e alla nostra gente. Sono d'accordo con Magris. Ma dov'era questo paladino dell'onore della nostra patria quando al governo italiano c'erano altri politici e il caro Mitterrand dava asilo a decine di terroristi assassini italiani rossi? Non si indignava allora? Non scriveva lettere di elevata dignità nazionale ai nostri presidenti del Consiglio? Forse non lo ha fatto perché Mitterrand era della sua stessa corrente politica, o forse non lo ha fatto perché gli stessi terroristi erano della sua stessa nuance di colore. Andrea. Vorrei chiedere a Roberto Saviano quando scriverà Gomorra 2. Gomorra sa che a Saviano prima o poi salteranno i nervi. Roberto, tieni duro. Purtroppo quello che ha scritto Saviano è tutto vero. Tutti sanno quello che ha scritto. A Napoli, come a Caserta, tutti conoscono già gli argomenti e i fatti del libro. Ma nessuno ha avuto il coraggio o le capacità per farlo. Se Roberto non avesse scritto il libro, forse ad oggi la politica non avrebbe dichiarato la guerra civile. Ai napoletani la Lega non sta simpatica, ma spero che il ministro Maroni arrivi fino in fondo. Sgominare la Gomorra. C'è tanto da dire e da fare. Rimbocchiamoci le mani tutti. Scrittori, magistrati, giudici, forze di pubblica sicurezza e soprattutto il popolo, buona parte del quale si deve ancora convincere che la politica oggi vuole andare fino in fondo e che non lascerà l'opera a metà. Salvatore. Probabilmente Saviano sapeva di toccare cose molto delicate, ma la cosa veramente paurosa è che non si possa avere la libertà di esprimersi. E nel momento in cui si sceglie di farlo, si devono fare i conti non solo con la propria sicurezza, ma soprattutto con la sicurezza dei propri cari e delle scorte. Non è più vivere. Quello che è strano è che l'onore, che tanto viene portato in evidenza dalla malavita organizzata, viene completamente annientato nel momento in cui si eseguono pene di morte verso persone che hanno solamente la colpa di aver fatto emergere ciò che è nascosto, ma che esiste. Non è eroismo. Forse è anche incoscienza. Sicuramente è verità emersa e sicuramente la malavita organizzata è vigliacca. Solo che è tanto, tanto forte. Come tutte le cose che non si vedono, la malavita organizzata nel momento in cui emerge fa paura. Io ho paura per queste persone che non vivono più da quando hanno scelto di dire quello che non si conosce. E soffro davvero per loro. Cosa possiamo fare? Davide. Riguardo alle classi separate per stranieri, bisogna vedere come si interpreta l'emendamento e quale risvolto ci può essere. Isolando i bambini immigrati, ci sarà bisogno di nuovi maestri e quindi nuovi stipendi, aule e spazi. Io troverei più utile che i bambini italiani imparassero le lingue straniere tramite i bambini stranieri e viceversa. Avremmo così un'integrazione e uno scambio culturali. Scambio che potrebbe essere anche di usi e tradizioni. Sarebbe un arricchimento per tutti, italiani e stranieri. Claudio. Sono un insegnante di scuola media e posso confermare che gli alunni stranieri non sono in grado di svolgere quasi nessuna attività rispetto alla classe, in quanto non comprendono la lingua italiana. Inoltre molti provengono da paesi come Africa, Cina, eccetera, dove l'istruzione è intesa in modo diverso. Per cui sono d'accordo con la mozione della Lega, anche se non sono leghista. Leonardo da Pescara. È assurdo che nelle nostre scuole elementari non si faccia nulla, nemmeno un corso pomeridiano di alfabetizzazione all'italiano per i bambini di lingua madre straniera che non conoscono o stentano a conoscere l'italiano. Questi vengono inseriti tout court nella classe di età corrispondente, con scarse possibilità di fare un percorso di apprendimento normale, il che rende evidentemente difficile la gestione in classe di questi bambini, cosa che è già difficile normalmente con quelli che capiscono cosa si sta loro dicendo. La cosa diventa evidentemente più grave quando l'inserimento avviene alle scuole medie. Con la proposta della Lega, mi è sembrato si volesse trovare una soluzione ragionevole a questa evidente problematica. Il modo però con cui l'opposizione attacca mi delude. L'opposizione ha colto l'occasione per lanciare questi ragionamenti basati su presupposti falsi, classi per stranieri, discriminazione su base etnico-razziale, ma non si è chiesta se il problema di inserimento scolastico esista oppure no. E per inserimento non si intendono i rapporti di amicizia e fratellanza con i loro piccoli compagni, ma di apprendimento didattico. Dato che questa difficoltà esiste, l'opposizione dovrebbe cercare di suggerire come affrontarla. Michele. Lavoro nelle scuole di Modena e ho appena parlato con un mio amico, professore di scuola secondaria. Quello che ha proposto la Lega per le classi separate per stranieri già lo fanno nella pratica ed è sacrosanto. Solo chi ignora la realtà scolastica bolla questa cosa di buonsenso come razzista. Roberto. Sono anch'io del parere che l'esame di italiano bisognerebbe farlo anche ai nostri bimbi e anche ai nostri parlamentari, visto che più di qualcuno l'italiano non lo sa e ignora termini anche attuali. Il fatto stesso che promuovano queste nefandezze dimostra che non ricordano più parole italiane quali emigrazione, povertà, nostrana, antica e attuale, solidarietà, intelligenza, umiltà. Mi fermo qui per motivi di decenza. Francesco. Le questioni relative all'immigrazione sono complesse, compresa quella della scuola, riguardo la quale ora la Lega propone una soluzione secondo me errata, ma che ha il pregio di parlare di cose concrete, reali, rispetto alle quali una famiglia con figli deve fare i conti. Mia cognata, non leghista, tra una scuola a 50 metri da casa con alta densità di bambini stranieri e un'altra ben più lontana, a maggioranza di bambini italiani, ha scelto la seconda. Un amico italiano, con figlio in una classe a maggioranza straniera, si pone il problema della sua crescita scolastica in un contesto dove le maestre dovevano aiutare anche gli altri scolari a imparare la nostra lingua da livello zero. Ma lo tiene lì, e grazie alla bravura delle insegnanti, a fine anno ritrova un figlio che non ha perso nulla nell'apprendimento e che, anzi, si è arricchito a contatto di coetanei portatori di un diverso patrimonio culturale. A Treviso ci sono già bambini stranieri, africani in questo caso, di 5 o 6 anni, che tra loro parlano italiano e con le mamme un misto di italiano, francese e lingua madre senegalese. Andrea. Mi trovo in disaccordo sul tema delle cosiddette classi ponte, proposte dalla Lega per i bambini extracomunitari. Ho 3 figli che hanno frequentato classi con bambini extracomunitari e mai, dico mai, vi sono stati problemi di inserimento, di ritardo nello svolgimento dei programmi per la loro presenza. Questo dato l'ho ricavato non solo dall'esperienza dei miei figli, ma anche dai molti incontri con i vari maestri e insegnanti, con gli altri genitori e con gli altri ragazzi amici dei miei. Ho l'impressione che questo sia un non problema. I bambini, anche totalmente digiuni dell'italiano, lo imparano in pochi mesi. Anche ora, quando accompagno il più piccolo, vedo gruppi di ragazzi in cui si mescolano senza alcun problema colori e abbigliamenti diversi. Faccio un rapido confronto con la mia esperienza. Quando frequentavo le elementari, ora ho 50 anni, ogni anno venivano inseriti bambini figli di emigranti. Nel Bresciano, dove abito, vi è stata una forte immigrazione di sardi e calabresi. Vi assicuro che il livello di conoscenza della lingua italiana di questi bambini di 5, 6, 7 anni non era lontana da quella di un ghanese o un pakistano. Qual è il problema? La presenza di questi bambini ritarda lo svolgimento del programma? E se tra i bambini c'è chi apprende con minore velocità? Se c'è un portatore di handicap? Facciamo classi ponte per i ritardati? Per gli handicappati? Non si può parlare né di razzismo né di immoralità, solo di stupidità. Ciò che è stupido, però, è concettualmente immorale e, probabilmente, è peggio che razzista. Non togliamo ai nostri figli il gusto del confronto, la sfida con l'altro, la gioia e la fatica del crescere insieme. Avranno tempo, da grandi, di fare le differenze e le pesature delle persone. Angelo, Brescia. Vi porto un esempio pratico. Nella scuola in cui insegno, un ragazzo cinese, che non conosce una parola di italiano, viene inserito in una classe normale. non riesce a inserirsi e a relazionarsi con gli altri studenti e gli insegnanti, poiché non riesce a comunicare. Morale della favola, malgrado l'aiuto dei docenti e le ore pomeridiane di italiano, perde l'anno, senza conoscere la lingua. Paolo. Gentile direttore, Silvio Berlusconi ha dichiarato che per raggiungere l'obiettivo che l'Unione Europea si è data sul clima c'è tempo e che il costo per la nostra economia sarebbe troppo elevato. Ma sì, c'è tempo. Sono certo che il nostro Premier, con le sue universalmente riconosciute capacità persuasive, sia perfettamente in grado di convincere i ghiacciai ad aspettare che sia passata la crisi per sciogliersi. E di convincere i deserti ad aspettare qualche anno prima di riprendere ad espandersi. O magari anche a convincere gli uragani a non infierire sulle povere città della costa est degli Stati Uniti, già provate dai mutui subprime. Qualcuno ha calcolato il costo dei danni del cambiamento del clima sulla nostra economia. Mi pare sia molto superiore dei 25 miliardi denunciati da Berlusconi. Con stima, Michele. Caro Michele, abbiamo parlato molto del clima a Radio 24, soprattutto mercoledì alla vigilia del Consiglio europeo sull'argomento. Lei ha ragione, non si può chiedere ai deserti di frenare la loro avanzata o ai ghiacciai di sciogliersi di meno, ma si può e si deve chiedere a tutti i paesi del mondo, soprattutto a quelli che hanno maggiori emissioni di gas serra, di partecipare all'impegno comune per contrastare la tendenza al surriscaldamento del pianeta. L'Italia può e deve partecipare a questo sforzo, ma cercando di non sacrificare la propria economia e le proprie imprese. Mi sembra, caro Michele, che un approccio realistico al problema possa dare all'Europa maggiori possibilità anche di cercare un impegno comune sull'argomento. E infatti la posizione del governo italiano a Bruxelles non è stata particolarmente criticata nemmeno dall'opposizione, al contrario di altre che invece hanno suscitato, e giustamente, polemiche anche forti. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it o agli indirizzi dei singoli programmi. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.